Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. La mia prima preoccupazione del lunedì è di evitare di ripetere qui in apertura le parole che la mattina scrivo nel commento sul sito del Sole 24 Ore, ma oggi le ripeto perché sinceramente non riesco a trovare un'altra sintesi che abbia un minimo di efficacia. E la sintesi è questa: che il campionato è finito, il calcio quasi. Il campionato è finito e lo sappiamo bene perché la Juventus è arrivata a più 3, che non è più 3 ma è più 3 con i bonus dei confronti diretti favorevoli, e quindi significa che in caso di arrivo a pari punti lo scudetto andrebbe comunque alla Juventus. Difficile immaginare che nelle 5 partite restanti la Juventus, con un calendario davvero in discesa, e il solo vero ostacolo, io credo, in Juventus-Lecce del prossimo fine settimana, non prossimo turno perché si gioca mercoledì, mi pare che sia un vantaggio più che sufficiente, può addirittura permettersi di perdere una partita, questo ammesso e non concesso che il Milan riesca a fare il pieno, ipotesi molto ma molto remota, perché insomma anche ieri ha completato il suicidio già iniziato in casa con la Fiorentina, lo stava completando ieri del tutto con il Bologna, poi è arrivato il pareggio di Ibrahimovic alla fine, ma che non cambia nulla. In ogni caso basta vedere la differenza di passo di queste due squadre, no? La Juventus ha disintegrato in meno di 8 minuti quella ridicola difesa della Roma, tra l'altro, parentesi, difesa della Roma che è al quarto poker incassato in trasferta. 4 con la Cagliari, 4 a Bergamo, 4 a Lecce. Nelle ultime 8 partite fuori casa ne ha presi 20. E i 4 di ieri sera, secondo me, i soli 4, sono dovuti al fatto che dopo l'espulsione di Stekelenburg e il rigore di Pirlo, la Juve si è praticamente fermata. Se restavano 11 contro 11, secondo me, non è che la Roma poteva rimontare, e non è che prendeva di più perché la Juve avrebbe continuato. La differenza di passo tra Vidal da una parte e Seedorf o Van Bommel dall'altra dicono più di 1000 discorsi o più di 1000 statistiche o numeri o esame del calendario. Qual è l'unica soluzione possibile di questo campionato? A grande onore della Juventus e direi però anche a disdoro del Milan. Poi c'è bellissima in coda questa rimonta del Lecce, anche se poi a proposito di com'è ridotto questo nostro povero calcio, sarà il processo per le scommesse a stilare la classifica definitiva di stagione, ma è chiaro insomma che tutto questo sparisce di fronte a quelle maglie ammucchiate sul prato di Marassi, perché così esigevano gli ultra. Non vi dico quante mail, quanti messaggi, quante lettere, quanti interventi vostri, immagino tra poco, non appena apriremo i microfoni all'800 24 00 24 su questo argomento. Novità di giornata per il momento non sono significative, però qualcosa c'è. Per esempio c'è stato un vertice tra questura e procura di Genova su quanto accaduto ieri, e entro domani dovrebbe arrivare in procura la relazione della Digos. Alcune persone sono già state identificate e questa non mi sembra sinceramente una prodezza, anche perché insomma, episodi come questi a Genova e nella Genova rossoblu purtroppo non mi sembrano inediti. Di sicuro, quanto si è preso, le ipotesi di reato sono minacce, lesioni, danneggiamento e violenza privata al momento. Poi ci sono alcune reazioni, per esempio ha ribadito Damiano Tommasi, presidente dell'associazione calciatori, che la situazione paradossale più inaccettabile è che questi tifosi siano rimasti dentro fino alla fine della partita. Cos'altro? Ah, Petrucci, sì, altre parole durissime di Petrucci. Non so se ci si rende conto di quello che sta succedendo al mondo del calcio. Una settimana fa avevamo un dramma, c'era un impegno, ma ieri sembrava non fosse successo nulla e abbiamo dato dimostrazione di come si rovina lo spettacolo più bello del mondo. Non si può andare avanti così, i presidenti sono convinti di essere loro a dettare le regole, ma così non è, la Federcalcio applicherà le regole, il CONI starà accanto a chi prenderà decisioni. E come fanno certi presidenti anche condannati a parlare di etica, siamo a un punto di non ritorno. Questo è il primo, non il primissimo, ma insomma è un primo siluro al presidente Preziosi. A proposito di Preziosi e della questura di Genova, è evidente che c'è una discordanza di non di vedute ma di versioni. La stampa stamane titola secondo me molto, molto giustamente, striptease, ma chi ha deciso? Punto interrogativo. Preziosi e la questura vanno allo scontro, perché ieri si sono sentite due versioni assolutamente antitetiche. Secondo Preziosi è stata la questura a suggerire per quieto vivere, o comunque i poliziotti in campo, pochi, molto pochi, presenti, a suggerire di non peggiorare la situazione accettando cose. Il questore ha assolutamente negato e ha ribaltato, anzi, sul presidente della società presente in campo, e quindi su di lui, perché a quel punto era la massima autorità presente, la decisione di sottostare alla gogna, la vera e propria autentica gogna medievale, come qualcuno ha scritto, dello spogliarello forzato. Stamane ha riparlato il questore di Genova Mazza, sentiamo. Il dottor Ciarambino, che è il vicario della questura, ha espressamente riferito per ben due volte ai vertici della società che noi eravamo assolutamente contrari alla consegna delle maglie, perché lo ritenevamo un gesto ricattatorio. Eravamo anche, questo è stato pure riferito, assolutamente in grado di garantire la sicurezza dei giocatori, perché avevamo una forza adeguata per qualsiasi tipo di intervento in quel momento, intervento che ovviamente non poteva essere però portato sulle gradinate per i rischi che ho già espresso precedentemente. Poi chi abbia dato, deciso o concordato con o tra i giocatori, questo lo vedremo. Comunque, queste mi sembrano parole abbastanza ferme. È evidente che tra il questore di Genova e il presidente del Genova qualcuno sta mentendo, non c'è nessun dubbio. Considerati, non conosco i precedenti del questore Mazza, mi fido però evidentemente dell'autorità e del ruolo che ricopre, e in compenso si conoscono molto bene alcuni precedenti del presidente Preziosi, a cui anche indirettamente mi pare facesse pesantemente cenno il presidente del CONI Petrucci. Siete già molti a voler intervenire, ma diamo in onda una prima telefonata. Salvatore dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Io volevo farvi una domanda veloce, poi ascolto per radio. Due o tre anni fa, se mi ricordo bene, dov'era Abete quando Lazio Inter i giocatori imposero la sconfitta della propria squadra? Ecco, volevo sapere un attimo se c'erano delle analogie in questo caso. Gli ultra imposero alla squadra di perdere. È un precedente gravissimo che lei ha giustamente ricordato. Pensi che non, sinceramente non mi era venuto in mente. A me era venuto in mente il diktat degli ultras a Roma e Lazio in un derby, che smettessero di giocare per via di voci fasulle che si erano diffuse o che loro stessi avevano diffuso, e lì risaliamo addirittura al 2004, ma è vero anche che passò inosservata quella vergogna di Lazio-Inter. Se parliamo di etica, se parliamo di regolarità e se parliamo soprattutto di dittatura degli ultras, vede qual è il problema secondo me finale del nostro calcio, è questo: che ogni volta si scrive, io stesso ci casco, non sarà facile dimenticare, no? Oggi noi pensiamo che sarà impossibile dimenticare i giocatori del Genova che si sfinano le maglie, Scully che fa il portavoce, che va là, che la tiene perché parla, evidentemente qualcuno conosce, no? Magari qualcuno ha frequentato, eccetera, oggi magari passa per eroe, ma insomma, al di là di tutto questo si dice queste non lo dimenticheremo, e invece continuiamo a dimenticarci delle cose che sono successe, perché la nostra memoria arriva fino a un po' a registrare delle cose, e poi altre evidentemente non è che le rimuove, ma risultano stratificate, diventa difficile ripescarle. Ma allora in Italia i tifosi serbi erano nello stadio giusto, scrive Roberto da Belluno. Non è per infierire su Marassi, ma lei ha centrato un problema, perché io sono assolutamente certo che l'azione di ieri è stata ispirata dagli ultraserbi. Mi pare fosse il 20 ottobre del 2010, comunque eravamo nell'ottobre certamente del 2010, è passato un anno e mezzo. Prima o poi bisognava che questi figuri, no, riuscissero a ripetere quell'impresa, perché in fondo riuscire a far inviare una partita internazionale non è una cosa da poco. È evidente, sappiamo ormai da anni, che di protagonismo vivono questi ultra, perché più sono protagonisti e più forte diventa il loro potere ricattatorio nei confronti di società innanzitutto, ma nei confronti anche di giocatori. E si è visto ieri, il gesto di togliersi la maglia è stato variamente interpretato, qualcuno è riuscito anche a spacciarlo per un gesto di distensione, di quieto vivere. Io trovo che sia stata la resa definitiva, e gli uomini di calcio sono letteralmente, i veri uomini di calcio sono letteralmente inorriditi per quanto accaduto. Ma questa gogna viene di lontano, viene dai serbi, viene dal caso Milanetto dello scorso anno, quando comunque in estate furono gli ultra a imporre la cessione di quel giocatore che aveva osato ribellarsi alla loro dittatura. La società Genoa non solo non fece nulla per opporsi, ma favorì la cessione. Due settimane fa a Novara i giocatori del Genoa, dopo un pareggio deludente, dovettero alla fine presentarsi sotto la curva in trasferta a Novara, occupata dagli ultra, e parlamentare con loro e accettare le loro minacce e tutto il resto. È ovvio che poi ad un certo punto questi, sempre più legittimati, no? Questi tracimano. Maurizio Catania, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io forse vado un po' fuori tema, mi dispiace, però volevo dire questo. Così come spettatore, non sono tifoso né della Juventus né del Milan, faccio subito questa precisazione. Mi piacerebbe veder finire il campionato, cioè l'assegnazione dello scudetto, in un altro modo, un po' come si fa in altri sport, dove ci sono una sorta di final series, perché dopo la prestazione ad esempio di ieri della Roma contro la Juventus, che francamente è stata, non so come definirla, lo sforzo che ha fatto il Milan con il Bologna si è vista una vera partita, ieri no. E temo che queste cose possano ripetersi, già le abbiamo viste negli anni passati comunque. Lei che ne pensa di questa mia idea? Perché veramente penso che la sua idea derivi dalla cultura del sospetto, e penso anche che derivi, mi perdoni, da una discreta incompetenza calcistica. Chiunque sappia un minimo di calcio aveva individuato da prima l'ultimo possibile ostacolo per la Juventus, la partita con il Lecce. Ma mi posso esagerare, il Cesena di mercoledì, perché comunque è un addio alla Serie A, ma certo, o il Novara che gioca chissà per quanti altri decenni, non tornerà magari nella massima divisione, ma non poteva essere Juventus-Roma l'ostacolo alto, tant'è vero che li hanno schiantati in 8 minuti, ma li hanno schiantati come la Roma si era lasciata schiantare, non dalla Juventus per seguire i suoi eventuali sospetti, che sono veramente, ripeto, figli del calcio di casa nostra, ma si era fatta schiantare così, l'ho detto prima, a Cagliari, a Lecce, a Bergamo, e quindi questo non esiste. In ogni caso la prossima volta, e comunque la volta precedente, è stato il contrario, perché il Milan era passato in vantaggio in casa con la Fiorentina, cioè non riesco a capire. Lei vorrebbe arrivare ai play-off dopo un campionato? Cioè togliere anche alla Juventus il merito di aver vinto a gioco lungo una grande corsa a tappe, che è fatta di tappe di pianura, ma è fatta anche di grandi tappe di montagna. E le grandi tappe di montagna la Juve quest'anno le ha vinte tutte, comprese quelle col Milan. Poi una l'ha vinta in maniera fortunosa e molto discussa a San Siro, pareggiandola, perché le bastava. Ma non si può alla fine azzerare tutto per fare cosa? Un giro di pista a vedere chi vince lo sprint finale? Il calcio, se Dio vuole, è superiore a queste cose. Giovanni Como, buongiorno. Buongiorno, io tornerei se possibile sugli argomenti di Genova di ieri. Sì, certo. Primo, di non essere originale purtroppo, però è forse un po' uno sfogo il mio. Allora, io penso di essere, non so se è più giusto dire inorridito o deluso da quello che è successo ieri. Credo, come ha detto lei, che sia la resa non solo del mondo del calcio, ma anche un po' della società civile per alcuni aspetti. Perché trovo inconcepibile che 100, 1000, non so quanti fossero, delinquenti, perché l'unico modo di definirli è quello, decidano che cosa devono fare delle persone che stanno giocando e tutti gli spettatori. Il problema è che io sono un tifoso molto passionale, vivo emotivamente il calcio, sono sì, entusiasta. Stringiamo Giovanni, perché c'è molta gente in lista d'attesa, sì, mi scusi. Devo solo dire che secondo me queste persone, ma non quelli del Genoa, tutti gli ultra, sono semplicemente dei criminali, andrebbero trattati come tali, sono però non, come diciamo spesso, la specie della società, ma l'espressione della nostra società, dove conta solo vincere e non si accetta l'idea di poter perdere, per cui Preziosi è un dio finché riesce a andare tutto bene, diventa magari un criminale adesso, e quando va bene ci si dimentica tutte le cose che fa, Zamparini lo stesso, il mondo del calcio... Sì, ma in buona parte lei ha ragione... buona parte lei ha ragione, Preziosi per anni è stato, cioè, i precedenti di Preziosi li conosciamo, no? Lei chiama da Como, io so che a Saronno e a Como stanno ancora leccandosi le ferite adesso lasciate da Preziosi sul suo cammino. A Genova, non dico all'esordio ma quasi, ci fu una valigetta farcita di centinaia di migliaia di euro che sancì la retrocessione del Genova, eppure era stato accettato, no? E mi pare che tuttora conviva abbastanza bene, no? con la piazza, prima dell'episodio di ieri se non altro, e quindi lei vede che certo ha ragione, alla fine anche lì contano soltanto i risultati. Max da Treviso scrive giustissimamente: buongiorno, quando Cappello disse che il calcio italiano era in mano agli ultra, le istituzioni calcistiche smentirono sdegnate. Che abbiano cambiato idea oggi? Sì, mi pare che abbiano seriamente cambiato idea. Certamente se dava retta a Cappello, cioè se anziché inalberarsi alle accuse di allora di Cappello, sono passati perlomeno un paio d'anni, le avessero prese più sul serio, ma più sul serio, non è che loro non le sapessero quelle cose, ma insomma, se si partiva 2 anni prima, perché adesso bisogna in qualche modo partire, perché se no io ne sono abbastanza convinto, il calcio non può più durare molto. Se tu 3 settimane fa scopri che un difensore di una squadra vende una partita e fa un autogol in un derby, e sto parlando di Masiello in Bari-Lecce, e 3 settimane dopo, a parte il dramma del povero giocatore del Livorno, e 3 settimane dopo una tifoseria calda, come è sempre stata quella genovana, calda, passionale, ma legatissima alla squadra, con un rapporto viscerale, simbiotico, diventa ostaggio della parte peggiore di se stessa, cioè di quella tifoseria, e arriva a far togliere la maglia ai giocatori, vuol dire che il calcio, secondo me, non ha più grandi margini di manovra, perché vuol dire che siamo molto, ma molto vicini al punto di non ritorno. Forse, scrive Mario Sconcerti oggi sul Corriere della Sera, una parte dei genovani duri e puri qualcosa all'inizio ha condiviso della protesta dei loro ultra. Il genovano continua a un rapporto viscerale assoluto con i colori del Genoa, poco razionale. Essere del Genoa, essere della città, avere il mare davanti e la storia alle spalle, ed è anche un modo di difendersi dall'ingresso dei sampdoriani nella vita, un ingombro mai giudicato dannoso o semplicemente inutile. Forse qualcuno di quei genovani ha avuto voglia di partecipare al festival dell'umiliazione a cui gli ultra avevano dato il via, ma tutto è diventato subito troppo. I genovesi hanno inventato il denaro, conoscono il valore delle cose, non si umiliano gli uomini perché la soddisfazione che se ne trae non dà vantaggi solidi e crea solo vendette. Genova, poi, tutta Genova, ha un suo senso della civiltà così forte da diventare quasi senso del privato, conosce il limite. Lo spettacolo di Marassi è stato invece unico nel suo eccesso e nella sua miseria. Mai visto niente in tanti anni, niente di simile in tanti anni di marciapiede calcistico. Antonio ha chiamato la provincia di Grosseto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Di che? Senti, io volevo parlare di, cioè, tipo su Milan, un appunto su Allegri. Non sono stato mai un estimatore di Allegri, a parer mio quest'anno lo scudetto l'ha perso solamente lui. Lasciamo stare gli infortunati, però la scelta di rischiare Thiago Silva una partita con la Roma, la scelta di schierare Ambrosini, 4 partite delicate, Barcellona-Catania, Barcellona-Fiorentina, e l'ostinazione verso Robinho, che è un grandissimo giocatore ma che a queste condizioni fisiche è un giocatore normalissimo, per me hanno contribuito a favorire la Juventus nella vittoria finale. Juventus, che a parer mio è l'unica squadra che ha portato una novità da un punto di vista del gioco. Chiudo, se mi posso permettere, che sì, sempre a parer mio è un campionato mediocre, visto che Inter e Roma, nonostante un campionato pessimo, sono ancora oggi in lotta per la Champions League. Molto mediocre, molto mediocre. Basta vedere i punteggi delle squadre, basta vedere per l'appunto, lei ha detto bene, la corsa al terzo posto, che è una corsa a ciapanò. Visto che qualcuno mi sollecita a usare un linguaggio rocchiano per fotografare certe situazioni, è una corsa a ciapanò, perché o perdono o pareggiano le squadre che lottano, si fa per dire, no, ci lottano davvero, ma sono di quella forza lì per il terzo posto, quindi anche questo, no, non è un buon viatico per il prossimo anno, perché a meno di rafforzamenti difficili da attuare, la terza, che qualunque sia la terza che andrà in Europa il prossimo anno, è difficile è difficile che riesca a, insomma, a fare una gran bella figura. Ci sono altri ritagli che ho messo da parte dai giornali di stamane che vale la pena, ci sono molti altri vostri interventi ovviamente già prenotati, ci sono alcune mail che volevo leggere. Facciamo tutto questo dopo l'intervallo di borsa. Damiano Tommasi, presidente Associazione Calciatori: togliere la maglia è un gesto gravissimo, anche se bisogna chiedersi perché si è arrivati a questa situazione. Evidentemente ci sono state minacce, come già è successo anche in passato, quando oltre alle parole certi tifosi si sono spinti alla violenza fisica. Però io la maglia non l'avrei mai tolta, è un gesto pessimo, non si può darla al primo che passa. Giorgio Testaro scrive: qualcuno dovrebbe avere il coraggio di denunciare per il reato di sequestro di persone i cerebrolesi di ieri a Marassi. Claudio scrive da Stoccolma: fortunatamente qui in Svezia è ricominciato il campionato, ho quindi la speranza che ieri, distratti da loro, gli svedesi non abbiano guardato il nostro ricampionato, risparmiandomi l'ennesima brutta figura da italiano, pensate un po'. E tante altre ancora. Andrea da Casale: non trova che il dialogo scandaloso tra Sculli e il capo ultrà sia l'ennesima dimostrazione che questa gente frequenta abitualmente società e giocatori? Io credo che quella, ripeto, Sculli è stato fatto passare, non dico per eroe, ma insomma per... Io credo che quel colloquio sia la seconda cosa più brutta del pomeriggio di ieri. La prima è per l'appunto che i giocatori si siano tolti la maglia con o senza l'avallo della società, temo con, anzi sono certo con. Il secondo episodio in ordine di gravità è proprio quello del colloquio di Sculli, a parer mio. Andrea Mantova, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Una considerazione. Sento parlare di istituzioni sportive. Secondo me questo tipo di problema non sono state in grado né di affrontarlo né di risolverlo fino ad ora. Secondo me è un problema che riguarda l'apparato statale. Con un po' di umiltà non si può chiedere all'Inghilterra come hanno fatto a sconfiggere la piaga degli hooligan. Beh, questo no, evidentemente non si può più, perché sennò l'avremmo fatto 20 anni fa, io credo, no. Credo che questa è una cosa che ormai non si può più fare, nel senso che bisognerebbe tornare indietro talmente di tanto e usare misure talmente severe, talmente dure, che è inutile che ci illudiamo di questo, perché abbiamo capito che il nostro Stato, la nostra classe politica, con rispetto parlando, insomma, ci mette lei dentro chi vuole, abbiamo capito che non solo è inadeguata a farlo, ma non ne ha la minima intenzione. Quindi bisogna battere qualche altra strada, temo. Che dice? Sì, lei ha ragione, però io credo che ho usato la parola umiltà. Perché sento parlare di tessera del tifoso, io stesso l'ho sottoscritta, poi mi sono ritrovato una PostePay, non ho nemmeno il conto corrente alla porta, sento parlare di tavoli, di commissioni, di trasferte proibite, vietate. Sì, sì. Però non lo so, forse. Ma no, ma a qualcosa anche questo, a molto poco, ma a qualcosa anche questo è servito. Però quello che manca è quello che manca davvero. Le prime due cose che mancano, a parer mio perlomeno, sono il pugno duro, il pugno di ferro una volta per tutte. E il pugno di ferro non può essere evidentemente obbedire e levarsi la maglia, perché invece è un'altra concessione a loro, un altro rafforzamento. Io sono abbastanza certo, adesso mi dimentico la seconda, pazienza, però mi lasci dire che sono abbastanza certo che se noi navigassimo oggi sui siti, se ne guardi bene, la prego, ma navigassimo sui siti ultra italiani e non solo, io credo che i genoani ieri abbiano preso tanti di quei punti che noi non ce li immaginiamo nemmeno. Cioè è scattato un altro c'è stato un altro scatto all'insù di proselitismo, capisce? Quindi con della gente del genere, o gli dichiari guerra con tutte le virgolette del caso, ma fino a un certo punto, oppure ce l'avranno sempre vinta loro, perché è così, perché ormai l'abbiamo capito, visto che la ricetta britannica non è stata usata quando era tempo e ora, adesso non so quale possa diventare quella giusta. Paolo Milano, buongiorno. Buongiorno. Niente, io faccio il delegato sicurezza per una società di Lega Pro e sì, ci convivo tutte le domeniche con queste situazioni. Quello che ho visto ieri è veramente molto triste, e il fatto di consegnare le maglie è stata una sconfitta, è la cosa peggiore che potevano fare. Sì. ci vorrebbe che in questi casi la situazione fosse gestita da chi ha un minimo di freddezza e che si occupa di quello tutta la settimana, ai rapporti con i tifosi, con la questura. Cioè lei dice professionisti veri, mi resti in linea, la prego, perché vorrei chiacchierare con lei, visto che lei fa questo di mestiere, mi pare di capire. Seguo la partita, il venerdì, tutti i venerdì prima della partita abbiamo riunione del GOS con la questura, con cui ci si rapporta, si vedono le problematiche, ci si può aspettare un certo comportamento da parte dei tifosi e si attua una procedura. Poi capisco che nel momento difficile durante la partita si può perdere la testa, però appunto per questo la palla non deve passare né ai giocatori né al presidente della società, certo, ma al delegato alla sicurezza, che ha una sua responsabilità e ha il rapporto con la questura e la gestione con gli steward. In questo caso sicuramente ci sono state degli errori gravi di un gruppo di tifosi da un settore all'altro, certo, non può essere così facile. Il far parlamentare i giocatori è la cosa più sbagliata, ci sono altri momenti in cui si può fare, ma non sicuramente. Paolo, le posso chiedere di che società si occupa o comunque di che categoria stiamo parlando? Lega Pro. In particolare il Monza e l'Atrizio, ma erano pochi tifosi, però capita anche a noi di subire contestazione e di trovarsi ad affrontare emergenze, insomma. Sì, possono, certo, essere anche 200 persone, ma ovviamente con 30 steward e poca forza di polizia, ma come è giusto che sia, non deve stare il meno possibile in campo la polizia. Sì, però in casi solo estremi può entrare in, certo, curva. Però quello di ieri è un caso estremo, Quello di ieri sì, forse si poteva fare, di sicuro ci sarebbe magari un po' di comunicazione su quel che succede dopo, perché poi non è così vero che non succede nulla a questi tifosi, certo, almeno i nostri purtroppo l'hanno subito sulla loro pelle. Al secondo petardo abbiamo anche a Monza, anche in società molto piccole, videosorveglianze che ti guardano negli occhi, ti riprendono al tornello quando entri, e durante la partita abbiamo la scientifica che controlla. Vengono da spati il giorno dopo, vengono quando però vengono da spati, sì, è una cosa, però ho l'impressione che sia tempo di andare oltre il DASPO, che per carità, se è applicato per bene, correttamente, seriamente, eccetera, già qualcosa è, ma credo che non sia abbastanza. Grazie Paolo. Le svestizioni, scrive Gabriele Romagnoli su Repubblica, fanno parte di una procedura volta ad umiliare. Esistono i luoghi di detenzione dove la legge non entra, in quelle situazioni in cui il più forte si arroga il potere di toglierti la dignità prima di ogni altro bene. Ma è possibile che in quella posizione ci sia un branco di invasati così vile da coprirsi il volto mentre esige che gli altri si scoprano? Possibile che nessuno si opponga a quel ricatto? Le immagini di Marassi sono da incorniciare nell'incredulità. Una resa generale senza condizioni né ragioni, cedono tutti. Il presidente Preziosi, quello dell'orgoglio ferito, scende in campo per chiedere ai giocatori di obbedire. Questa è la sua idea di onore e di bandiera. Calate le maglie e, se ve lo chiedono, anche le bracche. Simone ha chiamato dalla Spezia, buongiorno. Buongiorno a lei, guardi. Io diciamo vorrei un attimo che venisse un po' sollevato quel velo di ipocrisia quando si parla di queste frange di 10, 20, 30, 50, chiamiamoli elementi, no? Perché poi alla fin fine sono quelle frange estreme che comunque sono ben conosciute e dai vertici societari e dalle forze dell'ordine. Sanno benissimo uno per uno questi chi siano e che cosa fanno e dove vanno, e si sa tutto. E ci vorrebbe un attimo, come ho sentito dire, veramente il pugno di ferro, ma una volta per tutte, perché altrimenti come si può pensare di consegnare gli stadi alle famiglie? Io non mi sento di dire porto mia figlia a vedere una partita, a passare un pomeriggio diverso, ma veramente quello che chiedo io, e penso a nome di tanti altri tifosi genuani come me, che comunque viviamo il Genoa come un qualcosa di sottopelle proprio, di ridarci quella che è la voglia di andare a vedere la squadra allo stadio, non di doversi difendere e guardarla da una TV. Però come non si può pensare di aprire gli stadi alle famiglie quando poi certo, lo so, Simone, lo so, ha ragione. Ha perfettamente ragione. Non starò a tediarla, scrive Vincenzo Spinola, ancora una volta sulle differenze fra noi e l'Inghilterra. Non so se ha avuto però la possibilità di vedere la reazione dei tifosi del Wolverhampton alla retrocessione della loro squadra. Ieri pomeriggio, alla fine, hanno applaudito i loro giocatori e hanno cantato che sarà il prossimo anno, torneremo in Premiership. Quello è un altro pianeta, sì, perché loro erano già retrocessi e cantavano una roba tipo torneremo in Serie A. Questi devono ancora retrocedere. Di questo passo non ci sono più tanti dubbi, ma insomma hanno tutta la possibilità ancora di giocarsi la lotta per la salvezza, e invece accade quello che è accaduto. C'è ancora tempo, sì, per Matteo, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Volevo fare una piccola considerazione controcorrente, ma solo se si capisce il concetto che voglio esprimere. Purché sia sintetico va bene. Brevissimo, allora, se da un lato è giusto condannare i metodi di questa gentaglia che giustamente va condannata, va presa, messa dove deve essere presa, tutto d'accordo, però non dimentichiamoci che i tifosi, quelli anche del Genoa, io sono tifoso dell'Inter, ma i tifosi, quelli comunque con il cuore nella maglia e la maglia nel cuore, sono anche stufi da un lato di sentire giocatori che fanno le scommesse, gente che si mette d'accordo, gente che non si impegna, quindi certo. La dignità di portare la maglia dell'Inter, del Genoa e del Milan, quando uno non si impegna, cammina in campo, eccetera, eccetera, fa incazzare chiunque, come fa arrabbiare il politico che non fa il suo lavoro. Quindi sbagliato il metodo, ma una piccola lancia, bisognerebbe anche puntare il dito contro quei giocatori che scommettono, che non si impegnano. Che scommettono, sono d'accordo con lei, che non si impegnano, bisognerebbe essere sicuri che non si impegnano, perché possono essere semplicemente fuori forma, e mi lasci dire che non alla fine di tutto, sulle scommesse è chiaro che siamo d'accordo, su quello che lei sottende siamo in disaccordo profondo, e temo anzi che questa sua considerazione sia il punto di contiguità tra questi ultra e i tifosi cosiddetti per bene, ed è questa la linea grigia più pericolosa, a parer mio, in prospettiva soprattutto. Un 23 aprile ricordato da Nicola Filippone, che non farà fatica, credo, a essere migliore di quello attuale. Sembra ieri. 23 aprile 1986. La nazionale Under 21 di Azeglio Vicini conquista la finale dell'Europeo di categoria, superando l'Inghilterra. Dopo aver vinto 2-0 nella gara di andata, giocata a Pisa, con reti di Doradoni e Vialli sul rigore, al ritorno a Swindon gli azzurri passano in svantaggio, ma resistono e realizzano con il solito Vialli il gol dell'1-1 conclusivo al 90°. È una delle rappresentative italiane giovanili più forti di sempre, l'Italia che per la prima volta arriva alla finale, che però perderà contro la Spagna ai rigori. Oltre che sui fuori quota Zenga e Matteoli, Vicini può contare su ragazzi già in fase di affermazione, come i sampdoriani Vialli e Mancini, l'atalantino Donadoni, il romanista Giannini e l'avellinese Nando De Napoli, giovani che pochi mesi dopo diventeranno punti fermi nella nazionale maggiore guidata proprio da Vicini. Da ragazzo giocavo terzino sinistro, scrive Pierpaolo Udicino, e la domenica andavo allo stadio a vedere i miei idoli, Odorizzi e Nela. Noi genovani siamo sempre cresciuti nelle sconfitte, ma per noi i giocatori erano comunque degli eroi. Sottolineerei con la matita rossa e blu questo eroi. Però prosegue benissimo questo ascoltatore che scrive: siamo gente di mare, gente che accetta tutti e tutto, gente che ha sempre avuto l'inclinazione alla cultura, alla poesia, alla musica e alla comicità. E questa è la storia bella della miglior Genova. Gente che apprezza gli odori dei vicoli, che si ferma per ore a osservare il porto e il mare, semplice ma sincera, leale e disposta agli altri. Noi non siamo quei 100 di ieri allo stadio, vorrei che tutti lo sapessero. Noi non rappresentiamo quei 100 che tutti hanno visto ieri. Se le cose non vanno bene, noi genovesi siamo mugugnoni, è un lato della nostra cultura e tradizione, ma la violenza non è in noi. Fin qui il voto, a parte quell'eroi, il voto sarebbe 8,5, appunto mezzo punto in meno per via l'eroi, però poi questo ascoltatore scrive: per i veri cambiamenti bisogna toccare il lato scuro, smuovere i sentimenti, eccetera. Anche se razionalmente non doveva essere fatto, umiliarsi e immolarsi con l'obiettivo di far terminare la partita e non perdere punti è stato il più grande gesto d'amore che si poteva fare. Io non l'avrei mai fatto, ma loro l'hanno fatto, per non perdere punti l'hanno fatto. E qui scendiamo, dal mio punto di vista, scendiamo al 3, al voto che ho visto oggi in pagella per Luis Enrique su molti quotidiani, che si erano forse passati parola, perché non c'è un 4, un 5, un 2, c'è una sfilza di 3. Silvano Cremona, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Ascolti, io ho visto ieri la situazione a Genova e non è che seguo molto ultimamente il campionato. Io mi chiedo più che altro che investitura hanno certi tifosi per parlare con un presidente di una squadra. Cioè, io posso capire, pagano il biglietto, ok? Io ero arrivato al punto di pensare, un presidente che arriva a questo punto potrebbe anche essere espropriato di una squadra. Cioè, sono magari metodi un pochino drastici che magari probabilmente non verranno mai utilizzati, però mi dà un po' l'impressione dell'ultimo stadio per risolvere questa situazione. Però vede che siamo molto vicino all'ultimo stadio, ma non su un fronte solo. È per questo che io dico che mi domando seriamente ogni tanto quanto ancora durerà davvero il calcio. Perché è vero che c'è il calcio di vetrina, il calcio bello, c'è la Juventus che torna a vincere un campionato dopo tanti anni, però anche lì attenzione, aspettiamo la fine, perché vediamo poi se sulla maglia saranno 28, saranno 30, perché no, le nostre magagne ce le abbiamo, ma questo è chiaro che sono dettagli minimi, ma sono minimi e in ogni caso non servono, no, a ricreare un'atmosfera, anzi, ma senza voler fare, è chiaro che sono due vicende non contigue ma assolutamente, assolutamente distanti e diverse. C'è quel calcio di vertice, c'è il calcio di vetrina, c'è il calcio bello, però le ripeto, se nel giro di 3 settimane noi prima scopriamo che un difensore vende una partita in un derby e nel dubbio, per essere sicuro di tutto, si caccia dentro la palla da solo e fa un autogol volontario in un derby, e 3 settimane dopo questo che sembrava una frontiera che non era immaginabile varcare, se ne varca un'altra, costringendo i giocatori della propria squadra a spogliarsi e quelli accettano, a buttar via la maglia, lontani secondo me non andiamo più. Franco, Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Ecco, io volevo fare un intervento un pochettino controcorrente. La premessa, prenderei quella che ha fatto il radioascoltatore due interventi prima del mio, e condannando ovviamente il metodo che usano gli ultra e forse anche tutta questa collusione che c'è come società, eccetera eccetera, però a me sono sempre molto simpatici i cittadini che protestano, e quindi di fronte alla protesta non riesco quasi mai ad essere accusatore rispetto a chi si lamenta. Io sono tifoso della Roma, sono molto moderato per la verità, sono andato allo stadio tantissime volte, ero abbonato ma non andavo nella curva sud, andavo all'altra, proprio perché sono moderato. Però se io potessi far togliere la maglia ai giocatori della Roma per la partita di ieri, ma non tanto per l'umiliazione di togliersi la maglia, ma per non farla più indossare la domenica successiva, perché se non sono capaci, perché non è questione di impegno o di corruzione o che... C'è anche quello che non è capace di fare quel mestiere. Se togliessero la maglia e non la indossassero più la maglia. Ma sa, Franco, finché è una battuta radiofonica, oppure una battuta con gli amici o un discorso da bar, è ampiamente, fa parte del diritto di espressione e di opinione, ed è ampiamente condivisibile. Mi pare che da lì alla minaccia quasi armata, no? Sottintesa armata, che è stata, perché poi li aspettano fuori, è chiaro, non solo la domenica, anche su settimana, e a quello che è stato consumato ieri, ripeto, io queste fasce di contiguità sono filosofica se non altra, no? Teorica, sono secondo me di grande pericolosità, per cui non mi sento assolutamente di condividere il suo intervento, proprio perché in un certo senso non dico legittima ma prelegittima. E già questo è troppo. Dopodiché è chiaro che lei lo sta dicendo in maniera pacifica, perché ha addirittura cambiato curva per essere sicuro di non mischiarsi con lor signori. Sentite la musichetta sullo sfondo, mi spiace perché tanti di voi erano ancora prenotati. Continuiamo domani, poi parliamo anche di Juve, di Milan, parliamo di Barcellona-Chelsea domani sera, del trionfo del Real Madrid in campionato, parliamo di tutto quello che di cui sarà possibile parlare compatibilmente col tempo. Diego Rovelli in redazione per oggi, Nicolò Rinaldi in regia, buon pomeriggio.